cadenza, niente, quasi non fossi di lor sangue. Poi se io lontanassi, povero innocente, gli scemi in casa portano fortuna. Ce n'è al villaggio e chiaro come il sole. E non bisogno avreste per trovar moglie al vostro Federico di cercarla in città. Sì, anch'io lo dico, ma Federico è tanto innamorato, trova il sole e il fiore d'ogni virtù. Siete voi quella fanciulla per tirarmela in casa? Io no, per nulla. Così, senza conoscerla dunque, padrona rosa, consentirete salutarla, sposa del fior vostro? Oh no! Ti rassicura, madon, come sai sta un mio fratello? Padron Marco! Gli occhi qui li ho avuti assai, ma non per me ci vette. Buono champagne. Marco, io voglio i fiocchi del bello alla sordina, un occhiato di cuore, di là una parolina. Facendo il gonzo in novo, son certa scoprirò. Perfino il bel nell'uovo. Fra poco è qui per voi. Non tremate, ad è non può. tanto amo d'amor calmati e parla parla mio cuor io ti ho morto ecco io sono sonnolato innanzi a te tanto tanto era il desio di parlare a Dio primo oh mamma la mia bella Arlesiana quali sulla terra l'amo mamma io sono beato umi tu dunque tanto Arlesiana sposa io non lo vedo debbo parlare detto, decise di sposare una fanciulla d'Arles, e ver. Sì, viru. Li sentite come canta lassù, si sta bevendo il bicchier dell'augurio. Gioventù e felici, con te amo, quella del mattino, a ricercare un miro già posta in fila. Ho chiamato per nome, penetrando i canneti, ecco soltanto rispondeami. Federico! tua madre ti cercava e vivetta. Queste donne mi danno noia. Tu soffri. No. Thank you. Thank you. io vo tutta in orrore. Pur che parli d'un affetto antico, mi assicura se t'amassi mai, che ora dopo a questo limitore non ne cantar sogghignando a portare qualche tua lettera. Son pazzo io, non lo sai.